Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Giuseppe Sorrenti, Antonio Valente, Nunziante Scibelli, Vincenzo Giordano, Salvatore Vincenzo Zurdo, Gaspare Palmieri, Ignazio Aloisi, Onofrio Adesi, Francesco Augurusa, Giuseppe Piccolo, Salvatore Aversa, Lucia Precenzano, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Antonio Russo, Fortunato Arena, Claudio Pezzuto, Salvatore Mineo. Abbiamo introdotto questa nuova puntata di Lucciole nelle tenebre con un po' di quello che è stato la manifestazione della 19ª giornata della memoria dell'impegno che si è svolta a Latina questo 22 marzo. Infatti appunto la lettura dei nomi c'è stata in piazza dopo il percorso che abbiamo fatto per il centro di Latina ed è stato un momento emozionante, come emozionante tutti gli anni, anche se si ripete sempre uguale, riesce sempre a toccarci in modo particolare. E comunque qui sono Margherita e Stefano che vi dà un benvenuto in un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre. Come avete potuto capire dalla lettura dei nomi delle vittime di mafia, questa puntata sarà un po' particolare perché sarà interamente dedicata alla narrazione della manifestazione a Latina in occasione del 21 marzo, nella giornata delle memorie dell'impegno e nel ricordo delle vittime di mafia. Ma la domanda che può porsi la maggior parte della gente è: perché è stata scelta Latina? E chi se non meglio di Giuseppe Parente, un membro dell'Assemblea Nazionale di Libera, ci può rispondere? Sentiamo la sua intervista. Siamo qui con Giuseppe Parente della Segreteria Nazionale di Libera e vorremmo porre due domande. La prima è: che significato attribuite voi al 21 marzo e perché avete proprio scelto Latina per quest'anno sostanzialmente? Come ogni anno, il 21 marzo è il giorno simbolico della memoria e dell'impegno, quella memoria che si fa impegno quotidiano marciando assieme ai familiari delle oltre 900 vittime innocenti di tutte le mafie, per ricordare uno ad uno quei nomi, quelle persone che sono state vittime innocenti anche per la disattenzione civile che troppo spesso c'è stata in questo paese. Ecco, un momento importante per ricordare i loro nomi, per non fare in modo che siano dimenticate e quindi uccise una seconda volta, e per stare vicino a quei familiari che con coraggio hanno trasformato il loro dolore in impegno. Perché Latina? Perché Latina è da sempre una terra di accoglienza, terra di grande ricchezza, ma oggi è anche purtroppo una terra di forti contraddizioni e di radicata presenza criminale. Comunque si è passati da una presenza che era fatta di infiltrazioni da parte delle famiglie camorristiche, ndranghetiste del sud Italia, a un vero e proprio radicamento mafioso

Non si costruisce giustizia senza ricerca della verità. Ma anche qui io penso che si possa dire che anche noi dobbiamo diventare cercatori di verità. E prima della nostra intelligenza, la ricerca della verità impegna la nostra coscienza. È un problema di coscienza, è un problema di coscienza che deve impegnarci tutti. Vi prego, uniamo le forze, l'intelligenza, le energie, lasciatemi dire anche la passione, per essere tutti, ma proprio tutti, cercatori di verità, e chiediamo la verità. Poco fa un familiare mi ha detto, e so quanto gli costa a dire questo, me l'ha affidato con un pezzo di carta, me l'ha affidato su un pezzo di carta. Io rileggo le sue parole, le rileggo a voi, quando mi ha detto: i tribunali possono assolvere, ma noi familiari non assolveremo mai. Non vogliamo semplificare, non vogliamo sminuire l'impegno e la generosità di tanti. Però se vedete prescrizioni, bisognerà un pochettino rivederle nel nostro codice, perché sono troppi che vanno in prescrizione in questo paese, in questo paese, dove qualcuno è stato proprio bravo a fare in modo di avere delle leggi con tante prescrizioni. Ma chi è questo qualcuno di cui parla Don Luigi? Io non riesco proprio a capire. Ah, io non lo so, guarda Stefano, è tutto campato così un po'. Ma questo qui era, a parte gli scherzi, lasciando le polemiche. Ciao Silvio. E parliamo, queste erano le parole, un primo pezzo delle parole che Don Luigi Ciotti ogni anno usa nel suo discorso alla fine della manifestazione, come un momento di raccoglimento generale. Sì, infatti la sua figura, i suoi discorsi hanno sempre una grande capacità di impatto, un potere affabulatorio, affascinante, che cioè, ci prende sempre moltissimo. Nonostante fossimo stanchi dalla manifestazione, dal viaggio che abbiamo fatto da Bologna a Latina in Pullman, e comunque è sempre un momento di risveglio quando parla Don Ciotti. È un momento di risveglio, forse non potrà essere le parole che seguono, perché sono le parole un po' sonnecchianti di un nostro membro del presidio, Pietro Adami, che rilascia questa sua intervista sulle impressioni durante il corteo. In diretta da Latina, un'altra puntata di Lucciole delle Tenebre. Abbiamo qui con noi come primo intervistato Pietro del Presidio Universitario di Libera di Bologna. Pietro, dici un po', che cosa ti aspetti da questa giornata? Ciao innanzitutto a tutti, grazie mille Ste per avermi interpellato. Saluto anche i miei compagni di viaggio, che abbiamo fatto un gran viaggione questa notte. Non abbiamo dormito, quindi siamo tutti un po' rincoglioniti. E mi aspetto intanto che ci sia una grande partecipazione. E insomma, Latina è un territorio difficile, quindi dobbiamo cercare di smuovere un po' gli animi della gente, far scendere le persone dalle case, farle venire a manifestare con noi e cercare di lottare soprattutto contro il clan dei Casalesi, che qua si è radicato tantissimo. Questo è stato tutto registrato in presa diretta sul campo dal nostro instancabile Stefano, che ha portato tutta la sua attrezzatura tecnica per registrare live queste interviste, e non solo a Latina, ma anche ad Ostia, perché infatti mentre alcuni di noi sono ritornati dopo la manifestazione, dopo le precedenti 6 ore di Pullman, siamo ritornati con altre 6 ore di Pullman a Bologna in giornata. Invece altri, ben più temprati di noi, sono andati anche a Ostia con altri ragazzi, membri di altri presidi giovanili del Centro Nord, per fare qualcosa di molto speciale. E Turi, che salutiamo. Vabbè, c'era anche Turi, che è un po' più a sud del Centro Nord, perché viene da Leonforte. E adesso dimmi Stefano, che cosa avete fatto? Spiegaci un po' che cosa sono stati questi giorni a Ostia. Beh, innanzitutto siamo... ci siamo incontrati alla fine di manifestazioni in quella bellissima città che è Latina, che è molto bella e molto viva, e dopo aver preso numerosi gelati e aver fatto giochi come ninja, queste cose qui, ci siamo poi incamminati verso Ostia sostanzialmente con un pullman. E arrivati là abbiamo prima cenato in un posto che era un ex bene confiscato, cioè proprio un ristorante confiscato sulla costa di Ostia, e successivamente siamo arrivati nel posto dove abbiamo svolto attività del genere, dove abbiamo parlato, ci siamo confrontati sulla rete, e se volete sapere qualcosa seguite l'hashtag Ostia che carta su Twitter e Facebook, e non dico altro. E infatti, perché qui c'è tanto da dire, tanto da scoprire ancora, ma è tutto top secret ancora, perché il lancio avverrà presto, prestissimo, continuate a seguirci e vedrete che questa rete si combinerà delle belle. Comunque ne sentirete sicuramente parlare in seguito, forse diremo anche una puntata proprio a questa Ostia che carta che prende vita. E adesso questa puntata finisce qui, vi lasciamo con una canzone e dopo questa canzone il discorso di Don Ciotti, una parte molto bella del discorso che invita sempre come tutti gli anni al coraggio, all'impegno, all'invito a non stancarsi mai di quello che facciamo. Grazie e ciao a tutti. Ciao. Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fel. Eu disse que não sabia. Tu ficaste admirado sem saber o que dizia. Eu menti naquela hora e disse que não sabia. Mas vou almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Namoraria, canto, rufia, choram guitarra. Amor, ciúme, cinza, ciúme, dor e pecado. Tudo isto é triste, tudo isto é fado. Se queres ser o meu senhor e teres-me sempre a teu lado, não me falas só de amor, fala-me também de fado. Que o fado que é meu castigo nasceu para me perder. O fado é tudo o que eu digo, mas o que eu não sei dizer. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Namoraria, choram guitarras. Amor, ciúme, cinza, ciúme, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. é triste, tudo isto é fado. Vi prego, dobbiamo imparare il coraggio. Il coraggio di vivere è quello che chiediamo agli altri. Non chiediamo agli altri di fare se non lo facciamo noi, con coerenza innanzitutto. Dobbiamo imparare il coraggio di non nasconderci dietro le parole. Dobbiamo imparare il coraggio dell'umiltà, del riconoscere anche, di prego, i nostri errori. Perché anche noi abbiamo fatti tanti errori in questi anni, anche nei nostri mondi, anche tra tante persone meravigliose e realtà graffianti di grande valore, si insinuano errori, ma anche dentro le nostre realtà si insinuano forme di arrivismo, di ambizione personale e di piccoli giochi di potere, anche dentro associazioni che dicono di essere l'antimafia. Non dobbiamo dimenticare che la vera forza delle mafie, ce lo siamo detti già tante volte, sta fuori dalle mafie, sta nelle coscienze domesticate, sta nell'immobilismo, sta nella retorica d'occasione. Il male non è solo in chi lo commette, ma in chi vede commetterlo e sta con le mani in mano. Questo è il male. E allora ci vuole il coraggio dell'impegno quotidiano, coraggio del perseverare, del non mollare la presa. Lo so che a volte è difficile, lo so che a volte siamo stanchi fisicamente, lo so che a volte siamo travolti. Lo so che a volte siamo stati delusi di tante parole promesse e di non avere trovato le vere e autentiche risposte. Lo so che non è facile per tanti di noi e credo che tutti nella quotidianità abbiamo toccato con mano queste fragilità. Ma noi siamo qui per dirci: il coraggio dell'impegno quotidiano e di non mollare la presa, del non esaltarsi nei successi né deprimersi nelle difficoltà. Le mafie sono un problema sociale e culturale, non solo criminale. C'è una mafiosità diffusa che è il vero patrimonio delle mafie, prima ancora di quello economico, sia ben chiaro, è la mafiosità il primo patrimonio che favorisce le mafie.